Yes, this Dhamma talk was talking about the mindful contemplation of the body, Kayanavasana Satipatthana, and today's talk is going to be about the second establishment of mindfulness, namely Vedananupassana Satipatthana. Allora, il discorso di ieri sera era sulla consapevole osservazione del corpo, Kayanupassana Satipatthana, e questa sera parleremo del secondo fondamento della consapevolezza, Vedananupassana Satipatthana. Now, the instruction that the Buddha has given in respect to feelings in the Satipatthana Sutta is the following. Quindi l'istruzione che ha dato il Buddha rispetto alla contemplazione delle sensazioni è la seguente, nella Satipatthana Sutta. When feeling a pleasant feeling, one knows I feel a pleasant feeling. Quando uno ha una sensazione piacevole, sa di avere una sensazione piacevole. When feeling an unpleasant feeling, one knows I feel an unpleasant feeling. Quando uno sente una sensazione spiacevole, sa di sentire una sensazione spiacevole. And when feeling a neutral feeling, one knows I feel a neutral feeling. E quando uno sente una sensazione neutra, sa di sentire una sensazione neutra. Now, this marks the first part of the instruction with regard to the feelings. The second part is more comprehensive instruction. Questa è la prima parte delle istruzioni. La seconda parte è un pochino più completa. Now, when feeling a worldly pleasant feeling, one knows I feel a worldly pleasant feeling. Allora, quando uno sente una sensazione piacevole ordinaria o mondana, uno sa che sta sentendo una sensazione ordinaria o mondana. When feeling an unworldly pleasant feeling, one knows I feel an unworldly pleasant feeling. E quando uno sente una sensazione piacevole non mondana, sa di stare sentendo una sensazione piacevole non mondana. And so, when feeling a worldly unpleasant feeling, one knows I feel a worldly unpleasant feeling. Quando uno sente una sensazione spiacevole mondana, sa che sta sentendo una sensazione piacevole mondana. And then spiacevole mondana. And then the same thing for the unworldly unpleasant feeling. E lo stesso vale per la sensazione spiacevole non mondana, mondana nel senso di ordinaria. And then the Buddha speaks of a worldly neutral feeling, which one knows as such, and an unworldly neutral feeling that one also knows as such. E poi prosegue il Buddha indicando l'osservazione di una sensazione neutra mondana come tale e una sensazione neutra non mondana come tale, conosciuta come tale. Now, the worldly feeling is given in Pali as samisa vedana, whereas the unworldly feeling is given as niramisa vedana. Allora, samisa vedana sono sensazioni mondane, invece niramisa sono le sensazioni invece non mondane. Now, what we have are pleasant feelings that are divided into worldly and unworldly. We have unpleasant feelings divided in worldly and unworldly, and neutral feelings also divided in worldly and unworldly. Quindi ciò che abbiamo sono sensazioni piacevoli, suddivise in mondane e non mondane. Sensazioni spiacevoli divise in mondane e non mondane e sensazioni neutre divise in mondane e non mondane. And so the reason that led the Buddha to make this distinction is the following. E il motivo per cui il Buddha ha fatto questa distinzione è la seguente. Namely, shortly before gaining enlightenment, he tried to approach the feelings in different ways, and then he remembered that in his younger days, he had experienced as part of the jhana practice sukha vedana, and that there was nothing wrong with that state of mind. Allora, poco prima di raggiungere l'illuminazione, Buddha aveva affrontato le sensazioni in vari modi e si era ricordato di un'esperienza avuta in gioventù quando praticava i jhana, un'esperienza in cui aveva appunto provato delle sensazioni piacevoli, cioè sukha vedana, e aveva ragionato sul fatto che non erano degli stati mentali, erano degli stati mentali salutari. And so he accepted it as just another phenomenon to be observed, and then shortly after this he gained enlightenment. E quindi lui l'ha semplicemente accettato come un altro fenomeno da osservare e poco dopo questo momento raggiunse l'illuminazione. Now, this requires some more explanation, namely that feelings, ordinary worldly feelings, have at least a tendency to lead on to the arising of unwholesome mental states such as greed and aversion and delusion. Allora, questo richiede qualche spiegazione in più, perché le sensazioni piacevoli ordinarie o mondane hanno la tendenza di essere accompagnate da stati mentali non salutari, come l'avidità, la rabbia o l'illusione. And thus the ordinary worldly feelings are somewhat dangerous. Pertanto queste sensazioni mondane e ordinarie sono un po' pericolose. And thus, because they lead to an activation of greed, hatred and delusion, they are known as worldly feelings. E poiché possono attivare questi stati mentali negativi come l'avversione, la rabbia e l'illusione, allora sono definite sensazioni mondane. And so the unworldly feelings are known as such because they arise, these are not ordinary feelings, but feelings that arise in the context of deep meditation practice. Invece le sensazioni piacevoli non ordinarie sono così chiamate perché sono appunto non ordinarie e derivano dalla pratica della meditazione profonda. Such as during intensive samatha practice or during intensive vipassana practice. Così come nella meditazione profonda di samatha o di vipassana. Now, for instance, in the vipassana practice during the tender phase of the fourth insight knowledge, joy arises, and then also happiness, the feeling of or happy feeling arises. Per esempio, all'inizio, quindi nella fase tenera del quarto insight, sorge una sensazione di gioia e di felicità. And it is that happy feeling or happy state that can be referred to as an unworldly pleasant feeling. Ed è quello stato di felicità o di gioia che può essere definito come una sensazione piacevole mondana o ordinaria. Now, unworldly, sorry, unworldly, scusate, quindi non mondana, perché derivata dalla pratica. And as for the second unworldly feeling, it is unpleasant or unworldly, unpleasant feeling, and this arises when a certain dissatisfaction arises with the imperfections themselves. Ecco, per quanto riguarda invece le sensazioni spiacevoli non mondane, allora questo si riferisce a quella sensazione di insoddisfazione che sorge contemporaneamente a queste imperfezioni. And so in both cases, the unworldly pleasant as well as the unworldly unpleasant feeling do not necessarily lead to the arising of unwholesome greed and ill will and delusion. Quindi in entrambi questi casi, cioè nei casi di sensazioni piacevoli non mondane e sensazioni spiacevoli non mondane, allora in entrambi questi casi non c'è comunque il sorgere di stati mentali negativi come l'avidità, la rabbia o l'illusione. So basically we can say that the worldly feelings arise together with the sense impressions, and the unworldly feelings arise together with renunciation. Allora possiamo dire che le sensazioni, sia piacevoli che spiacevoli, mondane o ordinarie, sorgono sulla base delle impressioni dei sensi, mentre invece le sensazioni piacevoli o spiacevoli non mondane sorgono sulla base della rinuncia. Now, the instruction given by the Buddha in the Satipatthana Sutta applied to our meditation practice then means that whenever a predominant feeling arises, be it pleasant, unpleasant or neutral, we have to be mindful of it, we have to label it as such, and then observe it and know its nature. Allora, l'applicazione di queste istruzioni nella nostra pratica meditativa significa che quando sorge una sensazione, che sia piacevole, spiacevole o neutra, la dobbiamo riconoscere, etichettare, osservare e conoscere nella sua natura. Now, when it comes to the term, the Buddhist term feeling in Pali given as vedana, then this term should not be taken to refer to emotion, to an emotion. Allora, quando prendiamo questo termine, sensazione, che in Pali è espresso con la parola vedana, allora non va interpretato come emozione. But rather, it refers to the affective quality of an experience. Ma piuttosto si riferisce alla qualità affettiva di una esperienza. So let's say we have affective with an A. With an A, right. Makes a big difference. Affettiva, yes, affettiva. And to take an example, pain is there. The pain itself is a physical object. And the unpleasant quality of it, its unpleasantness, this is the feeling. This is the affective quality of the pain. Allora, prendiamo un dolore. Allora, il dolore di per sé è un oggetto fisico, materiale. La sensazione spiacevole che viene con questo dolore, questo invece è la qualità affettiva di quel dolore. And so, the as for the term emotion that is being used frequently in modern psychology, well, from Buddhist point of view, this is a complex thing consisting of different mental states. Per quanto riguarda invece la parola emozione, che è così comunemente usata nella psicologia moderna, da un punto di vista buddista questa è una parola molto complessa che si riferisce a un insieme di stati mentali. Now, the characteristic of the feeling is being felt, vedahita in Pali. Vedahita è la sensazione, è la, la caratteristica della sensazione, e cioè ciò che viene sentito. And its function is as experiencing or as enjoying the desirable or undesirable aspect of the object. E la funzione è quella di fare l'esperienza, di esperire e di godere della qualità piacevole o spiacevole o neutra di un oggetto. And its manifestation is the relishing of the associated mental states. E la dunque this is the manifestation. La sua manifestazione è il come dire il di nuovo il godere il tasting il gustare tasting sorry the quality of the associated mental states. Ecco, quindi il gustare la qualità degli stati mentali associati. And so, in general, we can say that the proximate cause for the arising of feeling, especially, let's say, a pleasant feeling, is tranquility. Allora, si può dire che la causa prossima per il sorgere di una sensazione, per esempio la sensazione piacevole, è la tranquillità. And so, to explain this last point, when you think of the 10 imperfections of insight that occur during the tender phase of the fourth insight knowledge, and then joy is mentioned, and joy is then followed by tranquility, pasadi, and based on the tranquility arises sukha or happiness. Allora, per comprendere meglio questo collegamento, allora, in riferimento alle 10 imperfezioni dell'Ensai, che sorgono nella fase tenera del quarto Insight. It's the third one, no? The fourth Insight. The fourth Insight, yeah. Yes. The tender stage of the fourth Insight. Quindi nella fase tenera del quarto Insight, allora sono elencati in questo modo, cioè sorgono in questo modo. Prima c'è Piti, che è la gioia, poi Passadi, che è la tranquillità, e sulla base di questi due stati mentali sorge Sukha, che è la felicità, il piacere. No, the classical illustration that is certainly given for feeling is certainly that of a cook tasting a dish that he's preparing for a king, and the king himself relishing or enjoying the entire meal. So the cook who will take his taste it only a little bit here and there, whereas the king will experience the full flavor of the meal because he will have all of the dishes. Allora, l'esempio che viene portato per questa contemplazione di Vedana è quella di un cuoco che prepara un piatto per un re. Allora, il cuoco farà dei piccoli assaggi di questo piatto, però sarà il re che lo gusterà pienamente. Now, every mental state or mental factor has a certain function, and the function of this mental factor is simply to experience an object, to relish it. Allora, ogni stato mentale ha la sua funzione, e la funzione di questo particolare stato mentale è quello di gustare un oggetto, di godere dell'esperienza di quell'oggetto. Now, when it comes to the place of feelings in the context of the Abhidhamma, and then feelings when is one out of the seven universal mental factors, And in association with every consciousness, seven mental factors will be there, and certain feeling will be one of them, irrespective of what the object may be, irrespective of what the other mental factors might be. Allora, nel contesto dell'Abhidhamma, la sensazione, quindi Vedana, rientra nei sette nei sette stati mentali universali, e questo significa che sorge, è presente con ogni coscienza che sorge, e anche che è presente con ogni oggetto, qualsiasi tipo di oggetto, e anche in presenza di altri stati mentali. In altre parole, Vedana, essendo universale, è sempre presente con ogni atto di coscienza. No. Non mixed up, but è chiaro. No, some peoples are of the opinion that certain feelings that one might be experiencing two feelings or three feelings at the same time, and in order to clear this matter, the Buddha stated, as is recorded in the Digha Nikaya, that one experiences only one feeling at a time. A volte una persona ha l'impressione di provare una, due o tre sensazioni contemporaneamente, ma il Buddha ha spiegato nel Digha Nikaya che questo è impossibile. Uno prova una sensazione per volta. And the quote is from Digha Nikaya, volume 268. When a pleasant feeling is felt, no painful or neutral feeling is felt, but only pleasant feeling. Allora, nel Digha Nikaya 86, chapter 2, right? Capitolo 2, numero 68, 86. 68. 68. Allora, dice che quando sorge una sensazione negativa, nessuna sensazione piacevole può sorgere contemporaneamente. And likewise, when a painful feeling is felt, no pleasant or neutral feeling is felt, but only painful feeling. Quindi l'ho detto al contrario. Comunque, quando sorge appunto una sensazione negativa, non può sorgerne una piacevole o neutra. E prima era quando ne sorge una piacevole, non ne può sorgere una spiacevole o neutra. And the same thing goes for experiencing a neutral feeling. E lo stesso vale quando si fa esperienza di una sensazione neutra. Now, feelings are just like all other conditioned formations, rather transitory in nature. They keep changing all the time. Quindi le sensazioni, così come gli altri fenomeni condizionati, hanno una natura transitoria, continuano a cambiare. And for a few moments we might be experiencing some pleasant feeling, then we may want to hold on to it, yet it's not going to last forever, and suddenly then it might turn into a neutral feeling, or it might turn into an unpleasant feeling. Allora, noi abbiamo una sensazione piacevole, vorremmo tenerla, ma questo non può accadere, e si trasformerà probabilmente in una sensazione neutra e poi in una sensazione spiacevole. And so, feelings are something like the clouds in the sky during April in Italy. Le sensazioni sono un po' come le nuvole in cielo nel mese di aprile in Italia. So all of a sudden they're there, and then maybe half an hour later they're gone again. Quindi magari in un certo momento ci sono e un'ora dopo sono sparite. Now, when it comes to the contemplation of feelings, we need to understand its certain potential. And this contemplation of feelings is a rather powerful contemplation by itself or in itself. Quindi per quanto riguarda questa contemplazione delle sensazioni, noi dobbiamo comprendere il suo potenziale, perché questa contemplazione è molto potente di per se stessa. And in Anguttara Nikaya, volume 4, paragraph 80, or section 88, we find a conversation that is going on between the elder Mahamoggallana and the Buddha. Nell'Anguttara Nikaya, capitolo 4, parte 88, c'è una conversazione tra l'anziano Moggallana e il Buddha. And the elder Moggallana asks the Buddha, what one, or how does one become freed from craving satna destruction? How does one gain liberation? How does one get free from cravings, destruction? Being, well, it's maybe not well translated. Cravings, bondage is better. Ah, ok, it's a suffrage. Okay. Allora, il venerabile Moggallana chiede al Buddha come uno si può liberare dalla schiavitù degli attaccamenti. Did you add something to that? And liberation. And come può ottenere la liberazione? And to this, the Buddha then replies that one should not be engrossed in the things of this world. Allora il Buddha risponde che uno non deve essere infiliato, come si dice, troppo coinvolto nelle cose di questo mondo. And one recognizes each condition. Quindi uno riconosce ciascuna condizione. And recognizing each condition, one understands each condition. E riconoscendo ogni condizione, uno conosce, capisce ogni condizione. And then understanding each condition, whatever feeling one feels, one abides, seeing it as impermanent. E quindi comprendendo queste condizioni, qualunque sensazione che sorga, uno la osserva e capisce la sua natura impermanente. So, the pleasant feeling is impermanent, the unpleasant feeling is impermanent, and the neutral feeling is also impermanent. Quindi la sensazione piacevole è impermanente, così come quella spiacevole e quella neutra. And then viewing them dispassionately, one looks for their end. Quindi vedendole in modo non coinvolto, in modo distaccato, uno cerca la loro fine. And one regards them as something to be renounced. E uno li vede come qualcosa da abbandonare, a cui rinunciare. And contemplating in such a way, one no longer holds on to anything in the world. Quindi contemplando in questo modo, una persona non si attacca più, non rimane legato a nulla di questo mondo, che appartenga a questo mondo. And as a result of this, one becomes completely cooled in oneself. E di conseguenza una persona rimane completamente letteralmente rinfrescato, raffreddato, rilassato, in se stesso. And then the Buddha says or uses the classical expression, one attains what had to, or one does what had to be done, and one will, there's no more birth for one. And so that's it. Allora disse questa parola famosa: uno fa ciò che va fatto e non c'è più rinascita. O uno ha fatto ciò che andava fatto e non ci sarà più rinascita. And so, this then is an expression for a person who has become an arahant. E questo si riferisce a una persona che è diventata un arahant. Thus, the contemplation of feelings carries the potential of leading a meditator all the way up to the attainment of arahantship. Quindi la contemplazione delle sensazioni ha in sé la potenzialità di condurre una persona fino allo stato di arahant. Now, when we observe the feelings or contemplate the feelings, and we see how they are transitory in nature, we will also see that they are unsatisfactory in nature and that they are lacking a self. Allora, quando facciamo questa contemplazione delle sensazioni e vediamo che sono transitorie come natura, vedremo anche in loro la natura insoddisfacente e priva di un sé. And those feelings are not the self either. E neanche queste sensazioni costituiscono il sé. Now, when we undertake the meditation practice contemplate certain feelings once in a while over a longer period of time, then we will realize that feelings are feelings with regard to one and the same object are pretty relative. Allora, quando intraprendiamo questa osservazione, contemplazione delle sensazioni, noi ci rendiamo conto che le sensazioni rispetto a un particolare oggetto sono piuttosto relative. Now, as an illustration for this, one might be experiencing a pain, and then when observing it, naturally it is accompanied by an unpleasant feeling. Allora, per esempio, nell'osservare il dolore è abbastanza naturale che questo venga accompagnato da una sensazione spiacevole. And so, then as one keeps observing this unpleasant feeling, then gradually one might realize that it turns into a neutral feeling. Con l'osservazione di questa sensazione spiacevole, uno potrebbe accorgersi che si trasforma in una sensazione neutra. And then again, maybe a little bit later on, still with regard to the same pain, it might be accompanied by a pleasant feeling, especially when one is happy to have a clear-cut object to observe. E successivamente questo stesso dolore potrebbe trasformarsi in una sensazione piacevole, soprattutto per via del fatto che uno è contento di avere un oggetto così chiaro da osservare o che riesce a vedere così chiaramente. Now, when it comes to the contemplation of feelings, we tend to experience a difficulty in observing neutral feelings. These are not that easy, not so easy to spot. Allora, quando si tratta di contemplare le sensazioni, sorge qualche difficoltà a contemplare quelle spiacevoli, perché queste, quelle neutre, perché queste sono un po' difficili da individuare. And so the pleasant and the unpleasant feelings are easy to spot. Quelle piacevoli e spiacevoli sono più facili da trovare. Now, one way of proceeding is if one has experienced some pleasant feeling, and then that pleasantness after a while is gone, and then there's no predominant feeling, so it seems, and then after a while, let's say an unpleasant feeling becomes predominant, then most likely in between one will be experiencing a neutral feeling. Allora, si può procedere in questo modo: quando c'è una sensazione spiacevole o piacevole, did you start with the pleasant that turned into unpleasant? Piacevole, che si trasforma poi in una sensazione spiacevole, allora molto probabilmente tra una e l'altra c'è la sensazione neutra. But then gradually it becomes easier to see the neutral feeling for what it is. Ma gradualmente diventerà più facile osservare la sensazione neutra per ciò che è. Or to see it more directly. O vederla in maniera più diretta. Now, as indicated already earlier on, in the connection with feelings, we have certain consequences to watch out for. Allora, come abbiamo già detto, relativamente all'osservazione delle sensazioni, dobbiamo stare attenti a delle conseguenze collegate con le sensazioni. Now, when some object arises and it is accompanied by a pleasant feeling, in the absence of mindfulness, it is quite likely that it will lead to the arising of liking. Allora, quando sorge un oggetto ed è accompagnato da una sensazione piacevole, in assenza della consapevolezza è facile che questo poi conduca a una attrazione. And in the same sense, when coming across another object, let's say an undesirable object, then it will be accompanied by an unpleasant feeling, and in the absence of mindfulness this will lead to the arising of ill will or disliking. Allora, allo stesso modo, se sorge un oggetto spiacevole, sarà probabilmente accompagnato da una sensazione spiacevole che, in assenza di consapevolezza, potrà portare a un atteggiamento di malevolenza o di avversione. And when an object is not so clear, when an object is not so predominant and it is accompanied by a neutral feeling, then in the case of in the absence of mindfulness, it may lead to the arising of ignorance. E un oggetto che non è così chiaro viene percepito con una sensazione neutra, e in assenza di consapevolezza questo può portare all'ignoranza. So what we have here is a case of causal connection. Quindi anche qui abbiamo un caso di connessioni causali. And one needs to be very clear about these certain connections. E uno deve avere molto chiare in mente queste connessioni. And bringing mindfulness to the arising of feelings can then stop such causal connections. Quindi portare la consapevolezza nell'osservazione delle sensazioni può interrompere queste connessioni causali, questi collegamenti causali. And so, the Buddha himself said that owing to certain conditions does certain craving arise, and then explaining why or what the condition is, well, it's a feeling associated with the seeing process, feeling associated with the hearing process, and so on. Quindi il Buddha stesso ha detto che craving arises owing to conditions, and the condition comes in the form of the feeling connected with the seeing process, hearing process, and so on. Sì. Quindi la brama sorge in collegamento con la sensazione, e la sensazione è collegata con il processo visivo, processo uditivo, e via di seguito. Now, how do we experience sukha or a happy feeling in the meditation practice? Allora, come esperiamo la sensazione piacevole o di succa nella pratica meditativa, la sensazione di felicità, succa, happiness, felicità? Right. Now, during the past practice, meditators might come across a state where the body is pretty free from pains. Allora, durante la pratica di Vipassana, un meditante può trovarsi a vivere uno stato in cui si è abbastanza liberi dai dolori. And so this particular condition may also be accompanied by a general sense of relaxation. E questo può venire con un generale senso di rilassamento. And so this then goes along with a general sense of well-being, physical as well as mental. E questo viene accompagnato da un generale senso di benessere, sia fisico che mentale. And a sense of gratification is there. E c'è anche un senso di gratificazione. And then meditators might describe it as sublime happiness. E allora i meditanti potrebbero anche descriverlo come uno stato di felicità sublime. Now some have described one description by a meditator of sukha was as it's like having received a full body massage. Allora, una delle descrizioni fatta da un meditante, una descrizione di succa, è come di aver ricevuto un massaggio a tutto il corpo. And so, when succa is present, then the entire body kind of feels like rubber. Quando è presente succa, tutto il corpo sembra essere fatto di gomma. Now, the Dhamma Sangani, the first Abhidhamma work, does not offer that much. It only says that sukha is mental ease and happiness, a sensation of mental ease and happiness. Dunque, il primo lavoro dell'Abhidhamma, il Dhammasangani, non dice molto riguardo a Sukha, però dice che è un senso generale di agio mentale e di felicità. Okay. Now, from a meditator's certain point of view, it's important to understand or to know the difference between sukha, happiness, and joy, piti, and both of these occur in the practice. Allora, per un meditante è importante distinguere tra sukha, felicità, e piti, gioia. Entrambe questi stati mentali avvengono nella pratica. And so, oftentimes meditators are not quite in the position to tell both apart. E spesso i praticanti non sono nella posizione di poterli distinguere. And what in actuality is piti gets described as happiness. Ciò che in realtà è piti viene descritto come felicità. Now, from the classical definition point of view, piti is the characteristic of piti is given as endearing. Endearing. It means it makes you other people like you. Oh, other people like you. Endearing. Questo è un po' difficile da tradurre. Comunque, la caratteristica di piti, secondo i testi tradizionali, è quello di essere piacevoli agli altri, agli occhi degli altri. And so it's diventare cari agli altri. Yes, that's me. That sounds good. Non c'è un aggettivo. You have something better. No. Non so, avete un aggettivo migliore, una caterina? No, non capisco, ma si parla mentre uno è in meditazione diventa caro agli altri. Ah, in meditation, how can you be endearing? When that mental state arises, then outside of that meditation, it will cause you to be endearing. Allora, quando sorge questo stato mentale, quando si esce dalla meditazione, questo causa l'essere amato dagli altri, essere gradevoli agli altri. And its function is the function of piety, of joy, is to refresh the body and the mind, or to pervade it with thrills and chills and so on. Allora, la funzione è quello di rinfrescare il corpo e la mente e in qualche modo pervaderlo con dei tremori, dei fremiti, dei brividi. And it manifests as elation. Anche questo è un po' difficile. Si manifesta come, si dice, elazione, e sentirsi sollevati, rapiti, diciamo. Rapiti. So, anyways, when we say rapiti or elation, then this can cover things like feeling excited, feeling enthusiastic, and feeling interested, and things like this. Quindi uno si sente eccitato, si sente entusiasta, si sente molto interessato, cose di questo genere. Now, in the case of happiness, the manifestation is as mental enjoyment or gratification. Invece, per quanto riguarda la felicità, la manifestazione è il godere mentale, l'apprezzamento mentale e la gratificazione mentale. Yeah. Now, what do you think among the two mental states, joint rapture and sukha, happiness, which one is coarser? Allora, secondo voi, tra questi due stati mentali, cioè la gioia o il rapimento di piti o la felicità di sukha, qual è il più grossolano? Piti è stato corsa. Piti è più grossolano. And the Venerable Sadhu Pandita describes piti in a nutshell as possessing bubbly energy, or bringing bubbly energy into the mind. Allora, il Venerabile Upandita definisce piti, in sintesi, come un stato mentale che porta nella mente un'energia frizzante o piena di bolle, insomma, frizzante si direbbe in italiano. And so, whereas in comparison to joy and rapture, the sukha, the happiness, is much calmer. Invece, al confronto, sukha o felicità è molto più calma. And when experiencing both of them in this order, namely first joy and then the happiness, the sukha, and then meditators clearly get the point, and usually they prefer the happiness over the joy. E quando si provano in quest'ordine, quindi prima piti e poi sukha, allora il meditante capisce la differenza e di solito preferisce sukha. Now, there are conditions in the practice when both of them arise, and there are also other conditions in the practice when only when happiness is there but piti is not there. Ci sono delle condizioni nella pratica in cui sorgono tutte e due, così come ci sono altre condizioni quando sorge solo sukha e non c'è piti. So when one practices samatha and one experiences the third jhana, let me see, one of the jhanas, which is composed of sukha and then ekagata, and there's no more piti there. Allora, quando uno pratica samatha e raggiunge un determinato jhana, c'è sukha, ekagata e piti non c'è più. And so, joy has been explained as the contentedness at getting a desirable object or the prospect of getting a desirable object, and happiness, sukha, is the gratification when actually experiencing it. Quindi un altro modo per definirla è la gioia e la gratificazione che viene dal aver visto un oggetto desiderabile, e sukha invece felicità è il piacere che viene nell'averlo effettivamente ottenuto. So if you happen to wandering across a desert, and then at a distance you see an oasis, and with the likelihood of finding some water there, and then you will experience joy. Allora, immaginate di esservi persi in un deserto e vedete un'oasi con la prospettiva di potervi rinfrescare con l'acqua, allora questa vista vi provoca gioia. However, when actually reaching the oasis and drinking the water from the well, that is when happiness arises. Quando arrivate all'oasi e effettivamente bevete l'acqua dal pozzo, allora è lì che sorge la felicità. Now, in the context of our Satipatthana practice, we may experience various forms of sukha. Nel corso della pratica di Satipatthana, noi potremo sperimentare o provare vari tipi di sukha. So there is happiness that arises simply out of the fact that we are meticulously observing the precepts without breaking them. Quindi c'è la felicità che deriva dal fatto che noi stiamo meticolosamente seguendo i precetti senza trasgredirli. And so, then there's also the happiness that arises out of the restraint of the senses, when the mind does not get bombarded by sense impressions. C'è la felicità nell'avere i sensi protetti, diciamo, non sono bombardati dalle impressioni dei sensi. And then there's that happiness that arises out of renunciation. E poi c'è la felicità che deriva dalla rinuncia. And then there are worldly types of happiness, such as the happiness of not having any debts and so on. E poi ci sono le felicità più mondane, come per esempio la felicità di non avere dei debiti e via di seguito. And then we can distinguish between sensate happiness and non-sensate happiness. Sensate, related to the senses? To the senses, based on the senses. Possiamo distinguere la felicità basata sui sensi e quella invece non basata sui sensi. And so happiness that arises upon seeing some pleasant object, this would be sensate happiness, but the happiness arising out of experiencing or the cessation of formations, that is non-sate and sensate happiness. Allora, un esempio di felicità basata sui sensi può essere quella che deriva dal vedere, per esempio, qualcosa di piacevole. Un esempio di felicità non basata sui sensi può essere la felicità che deriva dall'esperienza della cessazione delle formazioni. And so this non-sensate happiness is also referred to as santi sukha, namely the happiness of peace. Allora, questo santi sukha, cioè la felicità della pace, e ciò che deriva è la è la felicità che deriva da questo è la felicità che non è basata sui sensi. In what all of this shows is that apart from the worldly indulgence in sense pleasures and then the arising of happiness out of this, apart from this, there are many other forms of happiness available to one who practices the Buddha's Dhamma. Questo per dire che al di là della felicità che deriva dall'indulgere nei piaceri sensoriali, ci sono molti altri tipi di felicità, così come indicati dal Buddha. And so when a meditator experiences the fourth, the insight knowledge, and the imperfections are there, and he or she experiences joy, tranquility, and happiness, and then this together is referred to as Dhamma delight, Dhamma rati. E quando un meditante raggiunge il quarto insight e ha queste esperienze di gioia, di tranquillità e di felicità, allora queste sono definite Dhamma delight, cioè le delizie del Dhamma. And this Dhamma delight, in the words of the Buddha, by far excels the happiness of ordinary men and women. E queste delizie del Dhamma, così come dice il Buddha, sono assolutamente superiori alle felicità ordinarie che può provare un uomo o una donna. And so, before one gets to this point in the meditation practice, one will not understand what is meant. It's just the experience is not accessible. E prima che uno raggiunga questo punto della pratica non può capire, perché questa esperienza non è accessibile. However, when this fourth insight knowledge does arise and the mind is relatively pure, then this Dhamma delight sets in. E quando però si raggiunge questo livello, la mente è abbastanza pura, allora uno può godere di questo tipo di felicità, di and questa then, esperienza. And then at that point one realizes that this Dhamma delight is not dependent on maybe going to the movies or going to a restaurant, etc. E uno si rende conto che questa delizia del Dhamma non, cioè, è indipendente dal fatto di, per esempio, andare al cinema o what was the second going to a restaurant. O andare a un ristorante. Or being with friends. O essere con degli amici o altre cose. And so, with ordinary pleasures, no doubt one can, or in ordinary sense impressions, no doubt one can derive some pleasure from them, but such sense pleasures tend to be somewhat dangerous. È vero che uno può derivare un certo grado di piacere attraverso le impressioni dei sensi, i piaceri sensoriali, però questi possono nascondere dei pericoli. And the dangers come in the form of attachment, etc. E questi pericoli vengono sotto forma di attaccamento e via di seguito. Okay. Now, whereas in the case of this Dhamma delight, well, when it arises, it is free of dangers, except that one, except for the fact that one might develop, one might develop pride and conceit for it, out of it, or even certain wrong view or craving. Allora, invece questa delizia del Dhamma non nasconde particolari pericoli, se non la possibilità che uno sviluppi un certo orgoglio, presunzione, oppure una certa brama, did you say craving, e anche delle visioni errate, delle opinioni errate. And the craving is not ordinary craving, but just craving for this experience. Ecco, la brama, il desiderio, non è un tipo di desiderio ordinario, ma è il desiderio per questi tipi di piaceri legati al Dhamma. Now the greatest of the greatest form of happiness, as explained, is that of Nibbana. Quindi la forma più alta di felicità è il Nibbana. Now maybe this much for now. Let me conclude today's Dhamma talk on Vedana and Upasana. By wishing that may you take the instructions given by the Buddha to heart, may you apply those instructions to your practice as the feelings arise, and may it lead you to clearly see the nature of feelings, and may it lead to an increasing detachment from these feelings, and eventually may it lead to liberation. And this is it. Allora, che voi possiate prendere a cuore questi insegnamenti del Buddha sull'osservazione della contemplazione delle sensazioni, che voi possiate capire la loro natura, e capendo nella natura che voi possiate staccarvi, avere distacco da esse, e che questo prima o poi possa portarvi alla pace della liberazione. Okay. Okay. You have any questions? Ci sono delle domande? Yes, Anna Caterina. Wonder why Vedana is never proposed by teacher as a specific object of observation in meditation. I mean, for example, when you give instructions, sometimes you suggest watch body sensations, or yes, sometimes you suggest we watch mental states, but never. Not only you, the teacher, I never heard a teacher suggesting watch the Vedanas that you are experiencing during a session. So it's like if Vedana is something that we observe just as a, as an accessory. Let's say I had a pain and it was unpleasant. But it's never taken as an object in itself. So I wonder why. Lo vuoi tradurre tu, Anna Caterina, in italiano? Sì, che non sento mai, diciamo che questa Vedana non è mai presa come un oggetto specifico della meditazione, cioè possiamo osservare le sensazioni fisiche, possiamo osservare gli stati mentali, però non dedichiamo mai, non so, una seduta ad osservare le Vedana che si presentano in quella seduta. Mi chiedevo perché. Well, the answer to your question is like this. During the interviews, definitely, I do ask for feelings, at least on occasion. Whether an object is accompanied by by a pleasant feeling or a neutral feeling or whatever. Allora, durante i colloqui, sicuramente quando è il caso, lui chiede se la sensazione è accompagnata da una sensazione piacevole, spiacevole o neutra. The question then, your question then, remains why other teachers are not doing this. Mahasi Sayadaw is speaking about the Vedanas. He's written about them. Mahasi Sayadaw parla dei Vedana, della contemplazione dei Vedana, e ne ha anche scritto. And so, when I think of Sayadaw Pandita, then you'll find, for instance, in his book, in this very life, a section on feeding the eating to craving. E nel libro di Upandita, proprio in questa vita, c'è una sezione delle sensazioni che portano alla Brahma. Explained in great detail. E lì viene spiegato nei dettagli. Also, at least what your observation doesn't seem to be holding, at least for these two teachers. For other teachers, I don't know. Quindi per questi due insegnanti almeno non questa osservazione non si applica, non sta per altri. Well, what do you think the reason might be? Secondo te quale potrebbe essere la ragione? I don't know. I wonder. For example, suppose that once I do a sitting, and I decide to take as primary object of observation the Vedanas that can come from connected with each experience. So not to put the attention on the quality of the experience, but just on the Vedana of the experience. Is it possible or is it incorrect? You could do this if you want to. Sure, okay, enough. It's possible. Yeah, why not? Okay. Why not? Oh, it's naturally in the way Satipatthana is being taught in the Mahasi tradition. This is not necessarily emphasized to do it like this, and Vedana Nupassana is just part of the whole thing. So whenever feeling comes into the foreground, one is advised to be mindful of it, and as such it then qualifies as Vedana Nupassana Satipatthana. But you could indeed, as you're suggesting, do one entire sitting only in a Vedana Nupassana. Anna Caterina chiedeva se era possibile durante una meditazione seduta osservare solo l'aspetto di Vedana, di tutte le sensazioni che sorgono. E Venerabile risponde che sì, è possibile anche fare in questo modo, anche se le istruzioni date da Mahasi nella tradizione Mahasi sono quelle di osservare i Satipatthana così come sorgono, e quando è in rilievo, in primo piano Vedana, allora uno lo riconosce come quel particolare oggetto. Però è possibile anche questa alternativa. See, the way or the nature of the mind is that it can be trained in different ways, and also the nature of the Dhamma itself is such that it's rather flexible. Quindi la natura della mente è quella di poter essere addestrata in vari modi, e così come anche la natura del Dhamma è tale per cui è flessibile in molti modi. So, if you think of what was said yesterday about Kaya Nupassana Satipatthana, that this something can lead all the way up to the attainment of Arahantship, then now today the statement is there, the practice of Vedana Nupassana in the end could certainly lead to the attainment of the final goal. Come abbiamo detto ieri rispetto a Kaya Nupassana Satipatthana, cioè l'osservazione del corpo, così come questa può portare fino all'obiettivo finale, alla meta finale della liberazione, così anche Vedana Nupassana Satipatthana, di cui abbiamo parlato questa sera, anch'essa può portare fino alla liberazione. And well, there's some teachers who have a preference for one or the other of the four satipatthanas, and so they instruct their students accordingly. Ci sono degli insegnanti che hanno delle preferenze di un satipatthana rispetto agli altri, per esempio. Allora istruiscono i loro allievi di conseguenza. But it seems that the most natural way of proceeding is to really go by the occurrence, natural occurrence, predominant occurrence of objects. So whenever an object becomes predominant or something becomes predominant, then you pay attention to it. And if it happens to be a feeling, okay, but that's part of your observation. Però il modo più naturale di procedere è quello di osservare, contemplare l'oggetto predominante così come si presenta. Quindi se l'oggetto predominante in quel momento è Vedana, allora uno osserva Vedana. Does this answer your question? Yes. Yeah? Okay, yeah, next question, next point. Yes, Michael. Is it possible to watch an object without influencing it, without changing its quality? Allora, Michael chiede se è possibile osservare un oggetto senza influenzarlo, senza cambiare la sua qualità. This is a good question, and indeed, the mental states that are predominant when we observe a particular an object very much govern the experience, and very much govern the object, it may govern or influence the object itself. Quindi lo stato mentale che noi abbiamo durante l'osservazione di un oggetto potrebbe effettivamente incidere sull'esperienza che noi stiamo avendo, cioè può influenzare l'osservazione stessa dell'oggetto. And so, when we have the impression that the observing mind is, or the observation itself is certainly influencing the object, then we can take this itself as as something to be observed. Quando noi notiamo che la mente osservante sta influenzando l'oggetto osservato, allora noi possiamo prendere questa esperienza come oggetto primario, come oggetto stesso di osservazione. And so then at that point we there are many or a few things that we can learn, namely that when we observe an let's say a pain or so with an aversive state of mind, then we might realize that this makes observation very difficult. And so that maybe the object of observation itself is then becoming more even more unpleasant. Allora possiamo imparare delle cose interessanti. Per esempio, se noi osserviamo un oggetto, un dolore, per esempio, con una mente piena di avversione, con uno stato mentale di avversione, allora possiamo notare che anche il dolore stesso cambia e diventa più spiacevole. And so in general we can say that actually something pretty outstanding is happening. The object itself, the object observed itself is changing. No? Allora può capitare una cosa abbastanza straordinaria, che l'oggetto stesso che viene osservato sta cambiando. Because it shares the characteristic of anicca. Mm-hmm. And that entity that is observing the object itself is also changing. So you have two changing things. Perché l'oggetto possiede la natura di anicca, ma anche la mente che osserva sta cambiando, perché essa stessa contiene la natura di anicca. E quindi abbiamo due oggetti che cambiano. Are two things that are changing. Sì, due cose che cambiano. And it's this changing mind or observing mind that is observing the changing object. Quindi è una mente cangiante che sta osservando un oggetto cangiante. And this then makes for just an almost unlimited number of possibilities. E questo dà un numero illimitato di possibilità. And this you can see in your own meditation practice at times. E questo si può vedere nella propria pratica meditativa. And then, the opposite also holds true, that when you're observing an object, the object is, let's say, unpleasant, or so this will have an effect on the mind itself. It will change the mind. E si può dire anche il contrario, cioè che un oggetto, per esempio, uno osserva un oggetto spiacevole, questo può avere un effetto sulla mente. No. Ok. No, anything else? Cosa d'altro? Well, if not, then shall we do a little bit of chanting? Or maybe one more announcement afterwards regarding the chant.